Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, benvenute alla nostra 128esima trasmissione, giusto Annalisa? Mi pare no, 129esima trasmissione. Di una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, come sempre trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, potete ascoltare questa trasmissione, vi ricordiamo, anche collegandovi sul nostro sito internet, sempre grazie a Radio Onda Rossa naturalmente, alla pagina www.cl.clr.it /laradio.htm e cliccando sull'icona in diretta. Allora, veniamo a noi in studio, oggi siamo... è già svelato, di nuovo l'accoppiata vincente, quando si gioca ai cavalli, no? È vero. Sono sempre gli stessi. Rosina e Annalisa. Allora, dunque, vi ricordiamo che se volete parlare con noi... Grazie ragazzi. siete troppo buone. Se volete parlare con noi potete telefonare qui in radio allo 06 49 17 50, oppure... per quelle sempre tecnologiche di voi, io ad esempio non faccio parte di questa vasta schiera, potete scriverci una mail al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it, oppure come già sapete naturalmente potete mandarci un sms. Il numero del telefonino questa volta è diverso perché Annalisa, purtroppo essendo un po' chiacchiella, veramente chiacchiella, si è scordato un telefono alla casa e quindi questa sera il numero... Saremo il nostro, è una scusa in modo che do il mio, capito? Certo, è il tuo, così tutte quante ti chiamano. Yeah, chiacchiella. Allora dunque, il numero sarà 339-3469-492, lo ripeto nel caso non aveste carta e penna, 339-3469-492, lo ripeteremo anche nel corso della trasmissione, così se volete mettervi in contatto con noi potrete farlo quando vorrete. Dunque, alcuni di questi messaggini, insomma messaggini che ci sembreranno più all'uopo, saranno prontamente pubblicati sul nostro sito. Dunque, mentre vi aspettiamo, cominciamo naturalmente con la musica. Vi faremo ascoltare Sezen Aksu in Love of My Life Worldwide. Uè, che pronuncia. Separate the good stuff from the junk, and then I brain bang to bump the bunker. My name is Apple, then I rock your world. Why do your math? 30, 26, 36 and a half. I hope that you will realize I got the hazel eye to make it nature bad. Step to the back, step to the front. I come alive, y'all. I give you what you want. The rhymes I got plenty, degrees 120. And if you want some, to jump the fuck in. Feels right. I let you know that I am paying. Just gonna put the pen to the paper. Things gotta change up. I wanna sing, but I think I better hold up. We got me high, who's got a low ride? Can't stop, won't stop, rockin' till I die. Now, as I flip the hip hop drops on ya, guilt real. Soul singer, Erykah Badu, and Bahamadia. Original shine, NBC. Hey, that's me. I can rock you so dangerously. My name's Bahama D and came the chick in the game, get it down like me. I've been chose by G.O.D. to show the whole wide world the meaning of MC. Look, I be in love with a thing called hip-hop. We go together like B-boys and shell tops, and it don't stop, because it can't quit. My whole intention is to build in the uplift. I be the ultimate microphone dipsis, soloist with the Philadelphia accent. A living legend, baby, throw me on the track and I'm guaranteed Bahama D and get it crackin'. Rutilante, sciantosissimo brano scelto per voi da Annalisa, vi leggeremo invece un articolo di Rosanna Fiocchetto che è stato pubblicato sul sito fuorispazio.net, un sito molto interessante, se forse è il caso di visitarlo un po' più spesso, lo diciamo anche per noi ma anche per voi, insomma, se volete ci sono delle cose molto interessanti da vedere. Vi leggeremo questo articolo di Rosanna Fiocchetto, ormai mitica, che è intitolato Naiad diventa bella. Si tratta di un omaggio che la Fiocchetto offre alle fondatrici di questa notissima casa editrice, Naiad, appunto Naiad Press. Loro si chiamano Barbara Greer, Donna McBride, sono due importantissime personaggi del movimento, e dopo circa 30 anni di attività hanno deciso di andare in pensione, ma quel che è bello, hanno deciso di andare in pensione diciamo lasciando la loro eredità alle nuove leve. Sì, infatti pensate che addirittura le fondatrici, ripetiamo i nomi, Barbara Greer e Donna McBride, hanno cominciato con un solo libro ed hanno accumulato invece nel tempo un catalogo di oltre 500 titoli, unendovi la distribuzione di film, video, CD e audiobooks. Un soddisfacente successo economico con una decina di impiegate full time ed oltre 100 donne retribuite per diritti d'autrice e prestazioni professionali. Il loro obiettivo, dal debutto fino ad oggi, è consistito nel garantire che ogni donna in ogni luogo possa riconoscere il proprio lesbismo, entrare in una libreria e trovare un libro che le dice «Sì, tu sei lesbica e sei meravigliosa». Che bello! Dal 30 giugno del 2003 Barbara e Donna hanno passato la mano, consegnando la loro consistente eredità in libri e autrici ad una giovane gestione che ha assunto però un nuovo nome, e cioè Bella Books. Le due mitiche editrici, una coppia dinamica indissolubile, si sono autopensionate in un modo altrettanto mitico, ritirandosi a vivere sulle sponde dell'oceano, ad Alligator Point, nel Golfo del Messico. Qui possiedono due case sulla spiaggia, chiamate Simple Addition e Simple Interest, che affittano alle lesbiche interessate a trascorrere una vacanza in paradiso e a godere della loro compagnia. In una lettera aperta alle loro clienti amiche, si sono congedate così dal loro vecchio ruolo. Ci mancherete, ma sappiamo che Bella Books si prenderà buona cura di voi. Gestire la casa editrice è stato uno spasso stupendo, grazie a voi tutte per avervi partecipato. Anche a me mancherà il bel volto sorridente che era il simbolo della Naiad, e soprattutto mi mancheranno le personalità solari delle sue due madri. Ma mi consolo pensando che posso sempre regalarmi una vacanza con loro, per di più continuando a leggere i testi stampati da un'impresa che esse hanno avuto la capacità di preservare e di riconvertire con energie più fresche. Questo evento offre l'occasione di tracciare un bilancio di una grande avventura lesbica, culturale e commerciale, e delle sue scelte. Naiad, captando l'enorme bisogno lesbico di un immaginario positivo, ha pubblicato relativamente pochi libri di saggistica, privilegiando il romanzo in un'ampia gamma di generi: rosa, erotico, storico, giallo, umoristico, western, d'avventura e spionaggio, fantasy e fantascienza. Ha dato spazio alle raccolte di racconti e alla poesia, ai fumetti, alla storia delle scrittrici lesbiche e alle storie di vita delle lesbiche. Annalisa c'ha un attacco di... Sì. Sul western. Mi hai guardato per la mia pronuncia. Il tuo problema è la pronuncia, effettivamente. Sì. Vai, adesso ti tocca una sfilza di nomi. Sì, infatti, mo' ritrai ancora di più. Ha riproposto i pulp lesbici americani degli anni 50-60, come quelli di... Vado, No, vai tu, vai. Allora vado io, come quelli di Anne Bannon, Gay Willem e Valerie Taylor. Inoltre ha ristampato le poesie di René Vivien, Gertrude Stein, insieme ai classici contemporanei di Patricia Highsmith, Jane Rule e Isabel Miller. Ha lanciato autrici come Aldridge, Ortiz Taylor, Forrester, Claire McNabb, Saxon Bennett, tutte famosissime naturalmente, che sono diventate estremamente appunto popolari fra il pubblico lesbico. Vai Annalisa. Sì, ha insomma coltivato prevalentemente la scrittura creativa, la fiction... Niente, Annalisa non ha nessuna intenzione di andare avanti, stasera è una chiacchiella, va bene, continuiamo questo pezzo di Rosanna Fiocchetto che ci sembra oltremodo interessante, mentre Annalisa sfoga le sue risate sotto al tavolo io continuerò. Dunque, ha insomma coltivato prevalentemente la scrittura creativa, la fiction nella sua accezione più larga, inclusa quella cosiddetta d'evasione, nella consapevolezza che ciò che manca alla cultura lesbica è appunto un tessuto espressivo, per così dire normale, senza il quale è ben difficile che possano emergere, almeno in gran numero, contributi d'eccezione. Inoltre Barbara Greer sostiene una singola opera di fiction scritta in una determinata epoca vi dice di più su ciò che la gente realmente faceva e pensava in quell'epoca che 500 opere di non fiction. E dopo tutto molte lesbiche leggono romanzi, proprio come li leggono molte donne eterosessuali. Alle critiche accademiche dell'establishment letterario, la Greer risponde: le persone che amano la letteratura per la letteratura hanno una forte tendenza a prendere sul serio solo i libri tetri. A Allora, io chiedo scusa veramente a tutte voi, mi è venuto un attacco di crisi nervosa, non so perché, forse l'emozione di tornare con Rosina. E allora, stiamo ascoltando Crazy di Patsy Cline. Adesso Rosina finirà di leggere questo articolo, che tra l'altro è bellissimo e merita, di Rosanna Fiocchetto, quindi io non mi cimento, ritornerò dopo. Però vi ricordo il nostro numero di telefono per scrivere SMS, che è il 339 3469 492. Grazie. And I'm crazy for loving you. Crazy for thinking that my love could hold you. I'm crazy for trying, and crazy for crying, and I'm crazy for a far parlare Rosanna Fiocchetto. Dunque, Barbara Greer ha curato per la NIAID ben 7 antologie di racconti d'amore e di erotismo, emettendo un chiaro messaggio alternativo agli snobismi, alle idiosincrasie e alle censure. Conosce bene il mercato, il lesbo mercato e la sua variegata composizione. Ha dedicato la propria vita alla divulgazione della letteratura lesbica e al rapporto con le lettrici. Come spiegazione di questa passione, racconta in una lunghissima intervista inclusa in Happy Endings a cura di Kate Brand in NIAID Press 1993, che sua madre, mentre era incinta di lei, leggeva Il pozzo della solitudine di Radcliffe Hall. Che cosa leggeva tua madre, Annalisa, quando aspettava te? Charlie Brown. Forse una donna moderna, in genere. Donna moderna. Per 15 anni Barbara Greer è stata una instancabile e insostituibile redattrice di The Letter, la rivista fondata nel 1956 dalla prima associazione lesbica degli Stati Uniti, Daughters of Bilitis, le figlie di Bilitis, e poi sopravvissuta sotto la sua guida fino al 1972. Dice la Greer: sentivo che il mio dovere, la mia funzione, era trovare ogni frammento che fosse importante per le lesbiche e riferirne. La consideravo una funzione vitale. Credevo veramente che stavamo salvando il mondo per le lesbiche, che questo fosse il modo in cui l'avremmo fatto. Le sue segnalazioni e recensioni, che negli anni di maggiore repressione erano spesso firmate Jean Damon o con altri pseudonimi, sono raccolte nel volume Lesbiana del 1976 e ancora oggi offrono un insostituibile strumento di conoscenza e di studio, insieme al suo successivo libro The Lesbian in Literature del 79, ristampato nell'81. La direzione di The Letter da parte di Greer dal 68 al 72 coincise con gli inizi del movimento femminista. Era necessario che le lesbiche si sbarazzassero dallo stretto e intimo legame con il mondo omosessuale maschile e si orientassero in modo più forte verso la liberazione delle donne. Anche se le donne eterosessuali non soltanto non ci accoglievano a braccia aperte, ma anzi ad ogni occasione correvano ad arrampicarsi sui muri urlando lesbica lesbica. Speriamo che la prossima volta si arrampichino su di noi urlando lesbica lesbica. Dunque, costretta a chiudere la rivista per motivi finanziari, ma non volendo rinunciare alla sua attività di comunicazione, Barbara creò l'impresa di NIAID Press, associandosi con la sua compagna Donna McBride. Si unirono a loro Anita Marchand e Muriel Crawford, entrambe già pensionate e disposte ad investire una parte dei loro risparmi in un progetto collettivo. Il primo libro pubblicato fu The Late Comer di Sarah Aldridge, che era praticamente lo pseudonimo di Anita Marchand. Per i 9 anni iniziali, Barbara e Donna si occupavano della casa editrice di notte e nei fine settimana, finché nel 1982 decisero di impegnarsi a tempo pieno presso la NIAID. Il bilancio personale di Barbara Greer è ottimistico e dice: «La mia vita è stata un sogno che è diventato vero. Sono assolutamente convinta che la soluzione ai nostri problemi sia di essere pubbliche, di esporsi veramente, di fare esattamente quello che desideriamo fare». Prima di andare in pensione, Barbara e Donna hanno devoluto il loro sterminato archivio alla biblioteca del Gay and Lesbian Center di San Francisco, facendolo trasportare da un grosso camion con rimorchio. È il loro regalo alle prossime generazioni, ma è un dono inestimabile anche il catalogo di NIAID Press, una vera e propria miniera d'oro, soprattutto per l'editoria lesbica europea. Eppure, tra i titoli NIAID, finora sono stati tradotti in italiano soltanto Patience e Sara, che è stato tradotto con il titolo di Un posto per noi, e Side by Side, sempre di Isabel Miller. Le pubblicazioni sono di Estro e di Zoe. Cuori nel deserto di Jane Rule per le edizioni Zoe, e I Am a Woman di Anne Bannon per le edizioni Mondadori con il titolo Lesbo Pulp. È decisamente troppo poco, sarebbe uno spreco continuare ad ignorare questa ricchezza di scrittura invece di avvalersene per allargare anche in Italia la comunità delle lettrici, quel mercato dentro il mercato che ha bisogno di fantasia, di visioni, di idee e di emozioni. Intanto Bella Books sta proseguendo sulle orme di Naiad e il suo primo flyer presenta interessanti novità. E fin qui Rosanna Fiocchetto. Se volete saperne di più potete visitare il sito di Naiad alle pagine www.naiadpress.com oppure quello di Bella Books www.bellabooks.com. Allora dunque, chi di voi ci segue da molto saprà che abbiamo già trattato argomenti inerenti alla editoria femminile e ci siamo sempre lamentate della progressiva scomparsa di questi spazi e soprattutto della impossibilità pressoché assoluta di reperire certi testi fondamentali sia del lesbismo che del lesbofemminismo. Quindi ci faceva piacere raccontarvi di questa novità su Naiad. Ci dispiace molto che la McBride e la Greer sono andate in pensione, ma questa è un passaggio naturale in tutte. È un passaggio naturale per tutte. Almeno loro possono andare in pensione. Almeno loro possono andare in pensione, noi sicuramente avremo qualche problema. E quindi insomma è molto bello questo passaggio di consegna, questo progetto iniziato dalle fondatrici di Naiad Press continuerà comunque ad esistere anche se sotto un altro nome. Allora auguri a Bella Books. Oggi neanche un messaggino, una notizia molto triste, non so come faceva ridere. Nessuna vuole raccogliere il tuo numero telefonico. Io lo ripeto prima di far partire questo brano. Ripetilo. 339-3469-492 o il Trillini qui in radio allo 06-49-1750 e chissà che vi piace questo brano, se vi piace questo brano. gli appuntamenti. Oh, e dunque avrete riconosciuto la ormai mitica sigla degli appuntamenti, e infatti proprio stasera vi diamo un appuntamento che per noi è molto importante, ci sta particolarmente a cuore, e infatti ricominciamo a grande richiesta le serate al Centro Femminista Separatista. Dunque ci eravamo lasciate praticamente a giugno, quando è terminata la passata edizione di Les Bollywood. Intanto ci sembra di poter fare un bilancio positivo di questa esperienza, visto che sono state in molte a partecipare e a sostenere con la propria presenza il Centro Femminista Separatista. E molte di voi sapranno che il bar separatista, gestito da oltre 10 anni dal gruppo Le Sorellastre, purtroppo quest'estate ha chiuso. Questo naturalmente ci ha molto intristito, perché quel luogo, oltre a garantire una comunità politica al Buon Pastore, era uno dei pochi spazi, se non forse l'unico a Roma, aperto alle sole donne. E che dire, che per anni le Sorellastre ci hanno accompagnate nel nostro percorso, non soltanto collaborando alle varie iniziative che si sono succedute, ma mantenendo vivibile un luogo che soltanto in seguito è diventato l'attuale Casa Internazionale delle Donne. Quindi per noi è risultato difficile pensare di organizzare una iniziativa tutti i giovedì come quella di Les Bollywood dell'anno passato senza poter offrire gli agi che garantiva il bar. Ma nonostante tutto questo, naturalmente abbiamo voglia comunque di avere una continuità e di poter rimanere in contatto con le donne che ci seguono. E inoltre abbiamo ovviamente il desiderio piuttosto forte e impellente di mantenere vivo lo spazio separatista del Buon Pastore. Per questo abbiamo deciso di ricominciare Les Bollywood, seppure con una formula diversa. E quindi cercheremo comunque di garantire una proiezione mensile e di offrire uno spazio in cui si possa chiacchierare, conoscersi, mangiare e bere qualcosa insieme, in attesa che sia possibile riaprire il bar. E quindi ci siamo rimboccate le maniche, come si dice, ricettari alla mano, cucineremo apposta per voi le nostre specialità gastronomiche. Annalisa farà il soffritto napoletano, quindi magari chi vuole continuare a sentire le dolci risate di Annalisa può venire. No, può venire. Anzi, io devo mandare un bacio a Viviana, anche Laura e Melania è sicuro. Poi c'è cioè, Viviana che mi ha mandato un messaggio molto molto, non rileggo. No, non lo rileggere. Dolcissimo. La ringrazio, perché anche a scuola mi capitavano queste risate nervose, chiaramente. Poi se la radio tenesse il video mi facevano il rapporto, ma invece capito, se metti tu mi hai salvato, ti metto la nota sul registro. Ecco perché ho mandato save me di Katie Lang. Hai capito il trucchetto? Ho capito tutto. Dunque comunque se volete vedere Annalisa il 20, sì, potete venire al Buon Pastore presso, oddio, il Centro Femminista Separatista, infatti il CLR, tutte le bellissime donne del CLR, vedrete. Organizzeremo questa serata straordinaria Les Bollywood dalle 19 in poi. Adesso siamo prima dall'estetista, arriviamo. Passiamo dall'estetista, ci vorranno almeno 6 mesi, quindi arriveremo un po' in ritardo. E adesso Annalisa ci parlerà del programma. Sì, allora potete stare assieme a noi, se vi va, come va a noi, dalle 7 di sera, dalle 19 in poi, giovedì 20 novembre. E partiamo proprio con la presentazione di un libro, Il futuro rubato, di Roberta Micheletto, alla sua prima opera, edito dalla Zoe, ed è in collaborazione questa iniziativa con la libreria Zora Neale Hurston, che ha sede proprio alla Casa Internazionale delle Donne. Ospiti saranno l'autrice, naturalmente, Roberta Micheletto, che vi potrà anche autografare, se vi va, le copie, e Deborah Di Cave. Vi leggo proprio l'introduzione di questo libro, come viene presentato, che si fa una domanda che è molto importante secondo me, cioè: si può rinunciare all'amore per il peso della responsabilità, per il freno delle convinzioni e per eccesso di senso di colpa? Rischiando di capire troppo tardi che qualcuno, noi stesse, ci ha rubato il futuro, privandoci dell'occasione di tutta una vita? A meno che, quasi fuori tempo massimo, il coraggio non ci sproni a vincere la paura, cogliendo fino in fondo l'opportunità di amare. Sono 4 racconti, che sono definiti briosi e leggeri, semplici e struggenti, che narrano del bisogno di afferrare la felicità al volo per non lasciarci sfuggire il futuro che vogliamo. E tu come rispondi a questa domanda? Cogli l'attimo. Non lo possiamo sapere. Leggetevi il libro. Leggetevi il libro, sì, però diciamo in linea di massima io concordo col viversi tutte. Sei senza sensi di colpa. Tutta la vita, piene mani. Sei sfacciata. No, magari non avessi sensi, io lo dico proprio a giudizio. E poi alle 20:30 presso di noi, così vedrete pure la nostra sede dove noi facciamo la redazione delle nostre trasmissioni radio, rinnovata e ridipinta, c'è una cena di autofinanziamento. Come voi sapete, noi siamo un gruppo lesbico separatista e lo diciamo povero, molto povero. E ci finanziamo con la nostra, con il nostro, con la nostra, con le nostre attività, eppure noi che ogni mese dobbiamo sborsare i nostri soldini. E sono, abbiamo fatto, faremo, non è che abbiamo fatto, che dite che ci date roba vecchia, tanti piatti fatti apposta per voi, e mi cimenterò per la prima volta anch'io. Rosina, possiamo già accennare qualcosa del menù? No, una sorpresa. Chi fa cosa è meglio di no? Lenticchieri piene. No. Sorpresa. Ok, venite a assaggiare i nostri piatti e ci aiuterete così a sostenere questo centro femminista separatista e il nostro gruppo, se vi va. Alle 22 invece, appunto, ricominciano le proiezioni di Les Bollywood, e questa settimana, cioè il 20, abbiamo deciso di mandare, di proiettare Emma il francese. Tu le papane fa un papi pipì debut. Bravissima, e io lo dico in italiano. In piedi. Ok. Come non tutti i papà fanno la pipì in piedi, si può quindi capire bene o male di cosa parla la trama. Comunque adesso ve la diremo in breve. È una storia nei pubblici di Baron Dominique. Del 98, è un film belga, e questo anche ha un ingresso minimo a sottoscrizione. Io non ho vergogna di dire che è veramente minimo, quindi forse si può dire è un ingresso di 3 euro, giusto veramente un'offerta per ammortizzare un attimo quelle che sono le spese, vabbè, fitto sala, eccetera eccetera. Allora, vi leggiamo la trama in breve? Sì, diamogliela. Allora, alla fine l'amore, no scherzo. Il colpevole è il maggiordomo. Allora, per un bambino, qualsiasi sia la sua età, i punti di riferimento familiari sono fondamentali. Simon è un bambino di 10 anni, come tutti gli altri, salvo che lui ha due mamme. Pensate, due mamme che si amano così tanto, però, quindi è bellissimo, da aver convinto la medicina ad accordare loro l'inseminazione artificiale. Zoe e Dan vivono serenamente con il figlio, che non sembra porsi questioni esistenziali. Anche la madre di Zoe accetta la scelta della figlia. A turbare questa quiete arrivano dei nuovi vicini e Simone scopre lo sguardo intollerante, compassionevole e crudele degli altri. Il suo dolore si trasforma in odio. Lui vuole un papà, uno vero, uno che può mostrare fieramente agli amici, ai compagni, alla sua maestra. E poi c'è l'umiliazione che lo porta alla ribellione, alla guerra. Saranno necessari l'amore e la tolleranza di tutti coloro che hanno compiuto un cammino verso Simone, nonni, zii, amici, generazioni passate, e un suo amico che cambierebbe volentieri suo papà con la daddy femme di Simone. La storia è quella di un rito iniziatico simbolico, doloroso, tenero e toccante, che mette in evidenza il problema della differenza e della tolleranza. Io ho visto questo film e vi devo dire che è molto carino, perché tra l'altro è una commedia, non è assolutamente pesante, insomma. Non è troppo drammatico. No, assolutamente, veramente. E c'è addirittura una scena del papà che parla alla figlia, a Simone, dicendo perché è orgoglioso che lei sia lesbica, che mi ha veramente toccato, che non so che darei, esatto, che mio padre un giorno di questi che torna a Napoli mi abbraccia e dice che bello che sei lesbica. Invece, boh. L'evento, come ben sapete, essendo noi un gruppo lesbico, lo diciamo, separatista, è aperto a sole donne, quindi portate tutte le amiche che volete, amanti, fidanzate e quant'altro. Canetti. Ed è al centro femminista separatista. Noi ci riuniamo il mercoledì, se volete delle informazioni, quindi vi do il numero di telefono, che è un altro numero di telefono, 06 68 64 201, e il centro femminista separatista è in via San Francesco di Sales 1B. Vi do anche di nuovo il nostro email, che è contatti@clrbp.it. Naturalmente io, ricordiamo che siete all'ascolto, sì, naturalmente, di una calamità, cavolo, di cui ci rendiamo perfettamente conto. Certo. Trasmissione a cura del CLR nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito, in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa 87 900 MHz. Poi volevo rispondere a Melania, che si è sintonizzata tardi e dice: ma perché hai cambiato ogni volta numero? Ha ragione, so che questa volta è colpa mia. Mi sono dimenticata la nuova scheda a casa, e quindi solo per questa sera ripeto il numero: è 339 34 34 69 492. Grazie a tutti per i trillini, e adesso vi vorrei far ascoltare, a proposito della cena che stiamo organizzando, siamo esaltate, dal farla. Io almeno sono contentissima, spero solo che mi riesce quello che devo fare, perché domenica era straordinariamente buono. Sì, vi devo pure dire che, pensate, l'altra volta ero ammalata io e Rosina mi assisteva, questa volta purtroppo Rosina, poverella, è venuta in trasmissione sempre per amore vostro e spero anche un po' mio doppio. Poverella ha una mano fasciata perché è stata presa da un violentissimo attacco di tendinite dovuto molto probabilmente al fatto che è dovuta venire a casa mia a spostare delle piante. Quindi un trillino per Rosina, che è un tesoro. Quando Annalisa vi inviterà a pranzo non andateci, perché vi fa spostare le piante sul suo terrazzo, lasciate perdere. E allora, per voi, io vi volevo far ascoltare questa canzone che è un po' vecchia, però non so se tutti sanno che è una canzone bellissima di Mietta, scritta però da Mariella Nava, che non è nuova a fare canzoni un po' particolari, cioè tranne negli ultimi tempi, che veramente fa un po' così nervosire. Mariella Nava ha scritto questa canzone lesbica, assolutamente lesbica, che si chiama Il gioco delle parti, dove appunto due ragazze si incontrano a cena e con, diciamo, il doppio gioco, cosa prendi, che fame, comincio io, comincia tu, si capisce che si sta cominciando una storia, se non d'amore, almeno di letto. Io l'ho detta. Almeno di letto, sicuro. Io detesto mangiare a letto perché ci infilano tutte le briciole nelle lenzuola. Io sono contraria. Ve la faccio riascoltare, fate caso alle parole. Oh,